veramente un John. Yes people, questo è Jolly Roger e torniamo per questa nuova puntata, una puntata a sorpresa. Avevamo salutato una settimana fa dicendo che appunto era l'ultima puntata, ma ci abbiamo ripensato, quindi abbiamo detto che facciamo, che non facciamo, e dai, Jolly Roger sia anche questo venerdì. Quindi buon pomeriggio a tutti e tutte, iniziamo questa nuova puntata e facendo gli auguri anche a tutte le persone che in questo periodo non abbiamo incontrato per strada o altro. E niente, iniziamo la puntata con un pezzo appunto che parla di radio libere indipendenti come Pirate Radio, come Gemini Network, che salutiamo, e salutiamo anche Radio Grad che ci ritrasmette tutti i mercoledì dalle 17 alle 18. Iniziamo così, primo pezzo per noi. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Yeah. immediatamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. E ritorniamo in diretta, primo pezzo per noi, puntata dove andiamo di improvvisazione. Oggi non ci siamo preparati niente, ma il bello della radio è anche questo. Raccontiamo un po' quello che sono state le feste, un po' quello che saranno ancora il proseguo delle danze sui tavoli, quelle del 31 e dell'1. E raccontiamo anche un po' quello che è stato l'evento del 27 qui a Brancaleone, il nostro aperitivo organizzato da Fatti in Branca. E tra un po' appunto ne parleremo con Matteo e Luchino che sono qui presenti. E niente, ora Ciccio, passo il microfono a te. Iniziamo subito con la nostra consueta rubrica. Partiamo con le partite? No, prima l'evento 27, prima. Vabbè, prima vuole parlare dell'evento del 27, mai contraddire gli speaker ufficiali. Quindi, Ciccio, il 27 com'è andata? Raccontaci tu com'è stata quello che è successo, insomma, qui, racconta. Io ho raccontato i 27, ho venuto bene con Luca, Riccardo e Alessandro e te, Pietro. Ti sei dimenticato pure Andrea, eh? Andrea e io preparavo, preparato le polletti per fare le fritte e frittata e anche le brocchettine. E allora, a parte che avete cucinato da paura, poi ci dici com'è, c'era tanta gente, poca gente, ti sei stancato, ti sei divertito? Io ho tanta gente perché Davide, Giovanni Mira e che Natale, anche papà e mamma. Insomma, ha portato il pubblico delle grandi occasioni. Sì, e poi Tialolo e Tialoni. Che sono venuti da Nettuno per venire a farsi aperitivo qui al Brancaleone. Sì. E poi io, Davide, ma venuto benissimo, e molto sacco perché io andato via alle 9, andato a casa a dormire. Perfetto, ha detto è stata una giornata molto lunga che è finita alle 9, l'aperitivo è finito alle 9, poi abbiamo risistemato, abbiamo fatto un po' di cosette, ovviamente si è fatto più tardi, però sei rimasto contento. Poi invece dal punto di vista musicale ti è piaciuto, e saluto Daniele Savelli che ci ha fatto d'accompagnamento musicale, ti è piaciuto Daniele il suo Rino Gaetano? A me mi ha dato tanto Daniele Dano perché ha parlato bene. Perfetto, senti, che facciamo? Mandiamo il primo pezzo musicale e poi ritorniamo? Sì. Perfetto, allora andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Tanto poi cadiamo giù nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui, hai paura anche tu. Insieme siamo radioattivi, ma tu pure vivi. Ci siamo conosciuti già in un'altra vita, e ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira, non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita. Siamo l'opposto di una calamita, e se mi farà male lascia che mi uccida. I tuoi baci sono radioattivi, è un miracolo se siamo vivi. Siamo un dipinto di cicatrici che sopra la pelle sembrano graffiti. Morti sul collo come i vampiri, denti appuntiti, freddi come stalattiti. Per il cuore non ci sono contraccettivi. Tanto poi cadiamo giù nelle sabbie mobili, non usciamo mai da qui, hai paura anche tu. Siamo radioattivi, morti oppure vivi. La nostra il tempo di godere. Poi finisce il mondo, ma ci salveremo insieme. I tuoi baci sono radioattivi. È un miracolo se siamo vivi. Siamo un dipinto di cicatrici che sopra la pelle sembrano graffiti. Morti sul collo come i vampiri. Denti appuntiti, freddi come stalattiti. Per il cuore non ci sono contraccettivi. Tanto poi cadiamo giù nelle sabbie mobili. Non usciamo mai da qui. Hai paura anche tu. Insieme siamo radioattivi. Morti oppure vivi. Tanto poi facciamo la strada verso casa. Dopo l'ultima litigata. Non fare quella faccia. È una spada sul mio cuore. Non ci spererei più. Tanto poi cadiamo giù. Oh, ma è la fine del mondo se. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Stiamo parlando di quello che è stato l'evento del 27 qui al Branca. Ringraziamo tutti gli amici, colleghi che sono passati, parenti ovviamente che sono passati. E ora ripasso il mic al nostro amico Matteo, visto che prima mi ha detto che voleva parlare appunto il 27. Ora decide lui di cosa parla. Cosa di che parliamo? Io cosa del 31. Ah, ok, già siamo arrivati al 31, perfetto. Il 31 siamo arrivati a Capodanno, quindi perché si chiama Capodanno? Perché 31 c'è Capodanno, perché con papà e mamma sto toccata, perché io non ecco proprio, perché io a Genarca che c'è da Capodanno viene solo Clara, mia amica, e papà a preparare ridotto con crema e chicappi, e poi vinico, poi preparare le lenticchie, preparare le lenticchie con vino, poi limone, avocado, e poi le patate con a pollo e pitture. Io mangio tutto perché sì, no, stavamo dicendo, scusate, un momento di distrazione, purtroppo è anche questo il bello di Jolly Roger, e Matteo ci ha raccontato che praticamente sarà un tour de force anche il 31, perché cioè, abbiamo detto che se mangia forte, giusto Ciccio? Senti, tu hai detto tutto quello che cucini, sì. Ma tu aiuti a cucinare? Sì! Guardami bene in faccia, tu hai... Ah, ecco, tu aiuti solo a mangiare, sì, giusto? Sì. Perfetto. Senti, e poi, oltre a mangiare, che hai detto che facevi? Io venivo a trovare Paolo a Topra e a Piattino, e poi io alla Play, a Prima 22. E poi dobbiamo iniziare l'anno 2024 come... con un brindisi, quindi tu berrai cosa? Una birra! L'ha detto, ragazzi, ha detto che lui berrà una birra per festeggiare il 2024. E poi? A proposito, visto che stiamo in chiacchiera, si parlava di birre, vogliamo raccontare anche che tu dove sei stato prima di Natale? A Praga! Oh, a Praga! Raccontaci un po' di com'è Praga, a parte che non ti sei bevuto manco una birretta, e questa ho le testimonianze dirette dei tuoi genitori, mi hanno detto che ti sei rifiutato, che gli hai fatto spendere un patrimonio in acqua, perché l'acqua costa più della birra a Praga, e tu non ti vergogni di aver fatto spendere tutti questi soldi a papà? Sì, e io andato a Praga a Natale e racconto tutto. Io andato a vedere i mercatini, ma di Natale ho mangiato occhio che se lo ricorda, vediamo un po'. Non me lo chiede a me, io non lo so che te sei mangiato. Io Mariano, è prodotto cotto con i tarara e la carne anche mozzarella, ma è buonissimo. Ah, perfetto. Poi dove sei stata a Praga? Raccontiamo questo episodio, appunto si parla di Praga, salutiamo anche chi magari sfortunatamente ci ascolta da Praga. Ciccio è capitato il giorno in cui c'è stato l'attentato all'Università di Praga. Lui non se n'è accorto di niente, fortunatamente, però la cosa bella è che dopo che quella sera ci siamo sentiti per sapere se era tutto a posto, ti ho chiesto: sta nevicando a Praga? Sì, tanto. Allora, ero andato a fare una passeggiata con papà Massimo e Mariana. È andato a vedere anche i negozi, i portati di Praga. Io ho andato a Mercatini, ma... Al mercatino di Natale che ti sei comprato? Ti sei preso qualcosa? No, perché io... Manco un dolcetto, niente? No, che niente, io ho preso un zucchamela a Praga. Ma poi... zucco di mela a Praga, quando dovevi berti la birra. Zucca mela, dica, caldo, perché io... Il sidro caldo di me, capito? Un briacone. Oh, e poi un attimo, poi racconto, mangiare uova faggetta e zucca mela. Ah, proprio una ricca magnata ti sei fatto, cioè quindi tu hai iniziato da Praga a mangiare, hai proseguito a Natale... Hai proseguito il 27 qua che abbiamo fatto l'aperitivo e mo te fa pure Capodanno. Sì. Ah, non ti vergogni. No, racconto, aspetta. E ho mangiato, Chi si muove? Io ho mangiato le zuppe con dentro la carne. La carne ma buonissima, la zuppa. Papà di Piero. No, racconta una cosa, aspetta un attimo, e io ho mangiato un dolce, ho preso un dolce famoso, un dolce alle mele. Come si chiama? Oddio, il strudel, Piero. Ah, lo strudel. Perfetto, insomma, quindi qui Ciccio ci ha raccontato che lui sta in tour de force con i piedi sotto al tavolino dal 22 di dicembre praticamente, sì. Giusto? E finirà di mangiare quando? La Befana? Sì. Perfetto, senti, andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo? Sì. Perfetto, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da via. sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai. E anche a noi vengono i brividi ogni volta che torniamo in diretta, ogni volta che ci ritroviamo tutti i venerdì dalle 17 alle 18, l'orario di Jolly Roger, ma noi siamo un gruppo e ci vediamo sempre da almeno un'oretta prima e ci fermiamo anche una mezz'oretta dopo il nostro programma. Ciccio, siamo arrivati all'ultima di campionato dell'anno. Prima raccontare regalato a Natale. E raccontiamo cosa ti hanno regalato a Natale e cosa hai regalato tu a Natale. Aspetta. Allora, papà e mamma ha regalato una pepa della Lazio e poi una macchinetta automatica. Mamma, una macchinetta automatica che ancora non hai portato qua, che te possino a casa. Poi mamma ha regalato io a papà Natale a dietro di Roma. Ok, a papà che gli hai regalato? No. Un pacchetto di sigarette? No! Manco quello, manco un accendino. Ma che te vuoi, non ti vergogni? Ma io, c'ha ragione papà se non t'apre stasera quando ritorni. Comunque, senti, adesso che vogliamo fare? Che vogliamo dire? Le partite. Oh, quindi è il momento ufficiale delle partite. L'ultima partita, queste sono le ultime partite del 2023, giusto, sì. Ciccio? Quindi iniziamo il 2024 e quindi dai, puntiamo quest'ultima domenica a vincere tu Sordarelli. Quindi Ciccio, vai con i pronostici. Naimi Monda Ike 2, poi Piotina Torino, Pite Piotina, Temo Ite, Pite Tema, Milan Dottor, Pite Milan. Poi? E poi Uninere Bologna, Pite Bologna. Perfetto, poi noi non facciamo che augurare a tutti e a tutte di provare a giocare questi pronostici e speriamo di vincere. Noi siamo qui in onda tutti i venerdì, vi aspettiamo, mi raccomando, solo con i piedi si bussa. Alone, alone, alone. Chi dit étude dit travail, chi taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Siamo in diretta, questo è Jolly Roger. Abbiamo parlato con il nostro amico Matteo, ci ha raccontato di Praga, del suo Capodanno, del suo Natale, dei regali che ha fatto alla mamma quest'anno. La prima volta che sento dire raccontarmi da Matteo che ha comprato un regalo per la mamma, quindi ecco perché era un evento eccezionale. E abbiamo raccontato anche dell'evento del 27 che abbiamo organizzato qui in quel del Branca, e ora appunto passo il microfono a uno dei protagonisti dell'evento, il nostro amico Luchino. Buonasera, sono Luca e vi racconterò di quello che abbiamo fatto il 27 qui al Branca. Il 27 qui al Branca abbiamo fatto un aperitivo che io, Matteo e Riccardo abbiamo cucinato, servito, stato... abbiamo servito, abbiamo fatto un po' di cose. Io sono arrivato, ecco, diciamo un pochino in ritardo. Ho iniziato a tagliare per bene il pollo. Ho usato il pan grattato, le uova. Abbiamo fatto un sacco di roba. Poi ho fatto un goccio di birra. Ho conosciuto qualche persona. E ora ti faccio io qualche domanda. Come ti è sembrato? La gente è rimasta contenta? Tu sei rimasto contento da quello che ti hanno fatto da quello che ti hanno detto anche le persone che sono venute? Sì, guarda, sono stato contento, però dopo un po' mi è partita quasi la brocca, perché c'era un po' di confusione rispetto all'altro aperitivo che avevamo fatto. E sono contento e mi è piaciuto un po' stare con tutti, ecco. Perfetto, diciamo che stavolta è stato un aperitivo un po' più partecipato rispetto al primo, a noi fa solo che piacere. È stata una prova che il gruppo di Fatto in Branca ha superato in maniera egregia, lo diciamo anche pubblicamente qui alla radio, vari complimenti, vari messaggi sono stati molto positivi, quindi è stata una bella esperienza. Poi ovviamente, come abbiamo detto, è stata anche stancante perché noi siamo partiti dal primo pomeriggio per cucinare, organizzare, preparare, servire, però insomma il gioco è valsa la candela, come si dice. Ora, di che altro vuoi parlare, Luchè? Parlo di quello che farò domani. Allora, domani con mio padre lo vedrò, non so, praticamente quando mi verrà a chiamare andremo un po' a Talenti, Porte Roma, forse vedrò anche Matthew e andremo a Porta di Roma, farò qualche acquisto che non voglio dire perché sono un po' privati, ecco, e andrò al bar a prendermi un cappuccino da latte. Ah, aperto anche il Starbucks al piano di sotto. Quindi se volete andare a Starbucks a Porta di Roma, aperto Starbucks vicino a JD, insomma. E poi per il 31 dicembre a Capodanno resterò a casa perché non è che abbiamo tanti soldi per festeggiarlo. E resterò a casa con mia madre, verrà anche mia zia, ovvero la cugina di mio padre, forse vedrò anche mio cugino Marco, forse spero di vederlo. Spero di Ah, i tuoi mangiare fratelli. i miei fratelli. E spero di mangiare un bel risotto che ho assaggiato, è fenomenale, la frittura che ne vado proprio matto, insomma. E di botti, vabbè, sparerò quelli un pochino più poco che fanno poco rumore, i pop pop, quelli che lancio a terra, i mini ciccioli, e spero di trovare un bel Cobra 8 per fare un botto gigante, pum! Però ha detto che sparerà poco. Diciamo innanzitutto che in generale se fanno poco, visto che anche tu c'hai gli animali come li ho io, quindi uno li fa anche, non fa certe cose per non mettere paura, soprattutto agli animali, perché sono la parte, diciamo, più fragile del Capodanno. Mandiamo un pezzo e poi ritorniamo qui in diretta dal nostro amico Luchino. Poi nel frattempo non ho salutato, ma è qui presente il nostro amico Lucone e Federico. E quindi ritorniamo tra un po' in diretta, sempre qua. I tramonti quelli belli, i pranzi quelli belli. Vorrei togliere internet agli ultra quarantenni che amano i gattini, che odiano i clandestini, che risolvono i complotti ma sbagliano i congiuntivi. Quelli che la colpa è tutta dei poteri forti e dei cantanti di oggi conoscono solo il gossip. I loro miti sono tutti morti, noi siamo ancora vivi come Vasco Rossi. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghia giù omostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, invece noi siamo un classico. La mia generazione dice che sti ragazzini non vogliono più lavorare perché sono pigri, che stupidi, preferiscono sognare illudersi invece della paga nero per lavori umili. Dicono quelli che dopo il diploma hanno trovato un posto fisso ed hanno aperto un mutuo senza avere il babbo ricco. Adesso con un K prendi la stanza in affitto e il 110 lode vale meno delle cripto. Oggi si accusa il giovane di essere un fallito, dipendente dal telefonino, sti vecchi che si fanno le foto all'aperitivo col botulino in faccia mentre bevono un mojito. La mia generazione cringe, pensa che i giovani sono dei serial killer, ma da bambino al parco vedevo gli zombie come in thriller. Dovevo stare attento alle siringhe. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghia giù omostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, la mia generazione di mammoni. Diamo la colpa ai figli se qui mancano i valori, lasciandogli l'eredità del populismo, antipasto del fascismo, prosciutto e meloni. La mia generazione di vallette nude in tele, di pacche sul sedere che impennavano carriere. Mo quelle che si fanno l'OnlyFans sono ricche. La mia generazione paga per farsi le pippe. Quelli che nascondono la fede sono nelle chat a fare immagini, a dare i voti alle colleghe, tipo quella che al marito un anno che non si concede, poi dal capofficio ci va con le calze a rete. Cinquantenni che cercano tromba amiche, che si trombino un quasi cadavere, tomba amiche. Di noi la storia dice che giovani abbiamo trasmesso solo l'epatite. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghia giù omostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, invece noi siamo un classico. E Jolly Roger è un classico, ormai questa che inizia è la terza stagione. Proseguiamo la nostra chiacchierata con il nostro amico Luchino. Si parlava dietro, mentre non ci eravamo in onda, si parlava appunto di cosa si fa a Capodanno e la risposta più quotata è boh. Quindi cosa farà a Capodanno? Boh. Quindi non sappiamo se sia un segno positivo o negativo. Comunque, caro il nostro amico Luchino, ora è il momento tuo, il momento delle offerte e il momento delle battute. Quindi iniziamo, vai tu, ti passo il mic. Offerte supermercati Il Castoro. 10 pack da 10 mini bounty a soli 2,50 euro. Birra Heineken analcolica da 3 bottiglie a soli 1 euro. Carta igienica Consiglia da 4 a soli 2,99 euro. Le battute. Aspetta, come sempre dobbiamo dirlo a chi ci ai nostri ascoltatori che noi non piamo una lira da tutte queste offerte. Sono i consigli che Luca dà alle nostre amiche, ai nostri amici che o single o in famiglia si prestano a fare la spesa. Quindi giusto, Luca, non piamo una lira, però una merenda se va avanza, noi siamo qui tutti i venerdì dalle 16:30 alle 18:30 al Brancaleone, via di Levanna numero 11. Giusto, Ciccio? Allora, passo il mic e andiamo con le tue battute. Le ultime battute del 2023, quindi occhio, eh? Io e il mio prof di geometria siamo nella stessa squadra giocando a calcio. Io e il mio prof di geometria siamo nella stessa squadra. Io e il mio prof di geometria siamo nella stessa squadra. Andiamo qua dopo, ma sei un attimino intrippato. Questo è il bello della diretta, anche questo, giusto, Lu? Sì. Il colmo per un bruco, sentirsi un verme. Le tende da sole soffrono di solitudine. Ma un euro laureato è un punto di neuro della pelle che ha fatto l'università? Ieri è deceduto il mio lattaio, l'ha parzialmente cremato. Focaccia, focaccia dal bruttismo, carattere. Foca. Ma la basilica è una chiesa aromatica? Vecchioni da ragazzo si chiamano giovanotti? Ragazzi, il nostro amico Luca è andato un po' in tilt, ma l'emozione di queste ultime battute dell'anno, ma a noi non ci interessa. Andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta. Mergelli, non ne parla mai più, e cinque la mattina, it's me and you. La rosa ci spi, se mi sa senza te, la batta in tuo cuore, tu ti scordate di me. E gira Mergelli, ti porta dove tu, un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa ci spi, si stonga senza te, la pioggia in tuo cuore, tu ti scordate di me. Scordate di me, ci stanno a fuoco, bacio e furcella. Giovanno Pannisi, tu mi scordate di me. Questa volta dove vuoi tu, parliamo piano piano. E qui è giù, la festa che andare, lo scuro è tutto blu. Parliamo piano piano, tu descurdate. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, questa è ufficialmente l'ultima puntata del 2023. Siamo arrivati a questa conclusione di quest'anno che a Roma dice che porta fortuna, a me ha portato una sfiga clamorosa, però non, da quello che sento non è solo la mia fortuna questo 2023. Speriamo in questo 2024, innanzitutto ritorneremo dopo l'Epifania. Piano piano, volta per volta, spoileremo alcune, quelle che saranno le prossime puntate. Il 2024 si preannuncia un anno pieno di interviste, collaborazioni, insomma, tanta roba. Jolly Roger cresce e sono contento che così, insomma. E c'è qui il nostro amico Lugone, che ragazzi, cioè, ha già detto che lui per me ha vinto. Raccontiamo subito per quale motivo tu hai vinto, quante salsicce ti sei mangiato, ma dillo ai nostri ascoltatori che qua sono convinti che noi pettiniamo le bambole. Dia un po'. Quante salsicce ti sei mangiato? 8. Raga, 8 salsicce, una per volta, e lui ha vinto. Cioè, a noi da tombola, il tombolino, più di tanto non ci interessa, però ragazzi, noi abbiamo la testimonianza di una persona che è sopravvissuta a Natale, è il nostro amico Lucone. Detto questo, poi raccontiamo anche che ti sei vestito da Babbo Natale, giusto? Mo oggi si è scordato un po' perché non ci siamo sentiti, però la prossima volta ha detto che ci porta le foto, giusto? Porti le foto, ha detto, e porta le foto. Invece, per quanto riguarda il 31, appunto, come stavamo dicendo prima, noi abbiamo grandi programmi. Il programma più divertente è il nostro Bo Comune. Quindi, invece, c'è qualcun altro che, ovviamente, usanze e tutto quanto, dovremmo mangiare un po' delle lenticchie e codeghino, giusto? Quindi, caro il mio amico Lugone, dici un po' tu che ne pensi di queste lenticchie? Lenticchie a Capodanno. Buone. Buone. E come si dice a Roma, lenticchie a Capodanno? Sordi. Sordi. Sordi tutto l'anno, quindi allora, un consiglio che il nostro amico Lugone dà a tutti quanti è mangiate